Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. 10 anni dopo, quell'11 settembre, il nemico numero uno non c'è più e Barack Obama si presenta al mondo per annunciarlo. Osama Bin Laden è stato ucciso, ma di quel blitz non ci saranno, almeno per il momento, le immagini. Nessuna ostensione del corpo del nemico, che anche da morto però continua ad allungare la sua ombra di terrore. Lo vendicheremo, la sua morte è una maledizione, minaccia Al-Qaeda. L'Occidente teme dunque un'ondata di attentati e intanto scopre, dai PC dello sceicco, che altri stavano per essere pianificati sui treni. Storiacce di questa settimana vi porta allora nei rifugi di Bin Laden, con l'unico giornalista occidentale che l'abbia mai personalmente incontrato, ma dopo vi racconterà anche una vicenda tutta italiana di una vittima del terrorismo cancellata dalla burocrazia. L'ho incontrato 3 volte, una in Sudan e 2 nei suoi campi in Afghanistan. La mia prima reazione quando ho saputo della morte di Bin Laden è stata di indifferenza. Era il 19 marzo 1997 quando Robert Fisk, ora inviato dell'Independent, incontrò per la prima volta Osama Bin Laden. Al telefono dalla sua casa di Beirut, l'unico corrispondente ad averlo conosciuto racconta a Storiacce quegli incontri, parla del ruolo del Pakistan, della successione a Bin Laden, ma anche dei tentativi dello sceicco del terrore di arruolarlo e ora delle minacce ultime di Al-Qaeda. Lui era, per così dire, in pensione. L'obiettivo che si era prefissato l'aveva raggiunto, cioè creare Al-Qaeda. Ma Al-Qaeda a livello politico era già praticamente morta. Le rivoluzioni in Egitto, Tunisia, Libia e Siria. Queste erano le rivoluzioni che lui aveva promesso di portare avanti, perché voleva un califfato islamico. Ma chi si è ribellato contro Mubarak o Ben Ali non vuole un califfato, invoca la democrazia. E la gente si è sbarazzata di questi dittatori senza l'aiuto di Al-Qaeda. Non abbiamo visto bandiere islamiche, quindi si può dire che Bin Laden sia diventato una non-entità. Io ricordo chiaramente Bin Laden come una persona convinta che avrebbe sconfitto gli Stati Uniti. Lui si era posto degli obiettivi che non ha mai raggiunto. Ha fallito. Bin Laden è stato trovato ed ucciso ad Abbottabad, una città dunque, non in montagna come si è sempre pensato. E proprio quel compound pare fosse tra quelli già segnalati dal Pakistan agli Stati Uniti già nel 2009. Fisk, che ne dice di questo? La città è più facile da vivere se è circondata da campagna. Io non ho mai pensato che fosse sulle montagne. Ho sempre pensato che stesse o in Waziristan o in una città del Pakistan. So per certo che è andato a Karachi diverse volte. Io non prendo seriamente nulla di quello che il governo pakistano dice. Raccontano tante cose e nella maggioranza dei casi si rivelano false. Penso che i pakistani sapessero che si trovava ad Abbottabad. Sa, io conosco alcuni degli ufficiali dell'intelligence pakistana e alcuni sono contro gli americani, altri pro, specialmente chi riceve soldi dagli Stati Uniti. Va ricordato che i servizi segreti pakistani sono molto vicini ai talebani e hanno avuto contatti con Al-Qaeda. Anche la CIA aveva un rapporto stretto con Bin Laden quando lui combatteva contro i russi. Bin Laden aveva anche contatti stretti con il capo dei servizi dell'Arabia Saudita e si incontravano all'ambasciata saudita a Islamabad. Era un uomo difficile da nascondere. Ho parlato qualche giorno fa con una persona che ha contatti con i servizi pakistani. Al telefono non ha chiaramente potuto dire molto, ma mi ha detto che spesso la sorveglianza è meglio di un attacco diretto. In altre parole, sapevano dove stava Bin Laden, ma hanno preferito lasciarlo dov'era e sorvegliarlo, piuttosto di un assalto. Sono sicuro che i servizi pakistani e il governo hanno aiutato gli americani, anche se alla fine il problema per i pakistani è che un esercito straniero è entrato sul loro territorio e ha ucciso un arabo. E penso quindi che per il governo pakistano sia stato un duro colpo. Non mi stupisco che dicano qualsiasi tipo di cose e che molte siano contraddittorie. Com'era parlare con Bin Laden? Che diceva della prospettiva di essere ucciso? Lui è cambiato nel corso della sua vita, invecchiando. La prima volta che l'ho incontrato era vestito molto sommessamente. Aveva sandali di plastica e una tunica bianca. Quando l'abbiamo visto nell'ultimo video, aveva una tunica ricamata e penso che nel tempo sia diventato sempre più vanitoso. Quando gli facevo una domanda, prima di rispondere ci pensava 3 minuti senza dire una parola. E mentre pensava, rosicchiava un bastoncino di legno. E poi mi rispondeva con una frase completa e non tutti riescono a farlo. Ma proprio la sua forte fiducia in sé lo rendeva pericoloso. L'ultima volta che ci ho parlato è stato in Afghanistan. Mi aveva detto che aveva distrutto l'esercito russo, ma chiaramente era un'esagerazione. E che pregava Dio di trasformare l'America nell'ombra di se stessa. Quando sono tornato negli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, c'era effettivamente polvere e fuoco. E mi sono detto... Davvero, Osama ci sta riuscendo. È un uomo che diceva ciò che pensava, ma non ha mai detto di voler diventare un martire. Credo che questa sia la fine che lui immaginava per sé. Ma se fosse morto in battaglia o assassinato, su questo non so quale fine si aspettasse. Fisk, lei e Bin Laden avete mai parlato di una sua successione? Chi sarà secondo lei il nuovo leader di Al-Qaeda? E l'Occidente davvero ha da avere paura? No, non mi ha mai parlato della successione. Penso che fosse convinto e pronto ad essere ucciso, ma non me ne ha mai parlato. Certamente in pole position c'è Al-Zawahiri, che ho incontrato in Egitto, ma abbiamo parlato di cose mediche, su chi sarà il prossimo leader, forse Al-Zawahiri, forse qualcun altro, Abu Said. Ma agli occhi di Bin Laden, la bellezza della sua creatura, cioè Al-Qaeda, era nel non avere una leadership. Bin Laden poteva essere fonte di ispirazione per chi credeva che un certo tipo di Islam potesse cambiare il Medio Oriente. Ma Bin Laden non è mai stato operativo. Penso che la cosa fondamentale di Al-Qaeda sia che non ha un registro di iscritti. Chiunque può svegliarsi la mattina e dire che è membro di Al-Qaeda, e lo è di fatto. E si spiega così come operazioni o crimini e omicidi, come si vuole chiamarle, sono condotte da persone che non hanno mai incontrato Bin Laden, che non sono mai state in Pakistan o Afghanistan. Certamente ci sono delle connessioni, ma non c'è una guida precisa che detta la linea, per così dire, politica, ed è un errore enorme pensare a una persona come successore quando ipotizziamo dei nomi. Certo, ora ci potrebbero essere delle azioni di vendetta, ma l'idea che il mondo verrà travolto da una serie di attentati spinti dalla vendetta non credo che sia giusta. I musulmani arabi vogliono la democrazia e non un califfato improntato sullo stile Bin Laden. In un certo senso, non era più un pericolo per nessuno. Ora, più che altro, lui rappresentava una fonte di ispirazione. Dunque, davvero anche l'Italia rischia? Le misure di sicurezza di sicuro sono state già rafforzate. L'intelligence ha aumentato i controlli sui trasporti e sugli obiettivi americani e pakistani. Perché il rischio, conferma il procuratore aggiunto milanese Armando Spataro, sono soprattutto i cosiddetti terroristi fai da te, come quel game che 2 anni fa tentò di farsi saltare in aria davanti ad una caserma di Milano. Da molto tempo gli operatori nel campo dell'antiterrorismo sono convinti che non esista più una guida unitaria. La sua morte certo costituisce un colpo per l'ideologia più che per l'apparato organizzativo, e questo potrebbe produrre reazioni inconsulte persino da parte di coloro che praticano il cosiddetto terrorismo fai da te. Il singolo terrorista, il gruppetto di 2 o 3 persone, sono entità di minima dimensione che dunque è difficile individuare preventivamente. Internazionale a quello interno, doppio fronte questa settimana per Storiacce, che alla vigilia della giornata per le vittime del terrorismo, il 9 maggio, vi riporta al 1977 su una strada di Milano. In via Castelmorrone, un comando dei NAP, i nuclei armati i proletari, uccideva Giuseppe Saporito. 34 anni dopo, lo Stato italiano invita i familiari alle celebrazioni per le vittime del terrorismo, ma di fatto non le riconosce tali e non attribuisce loro i risarcimenti. Una battaglia che ora il figlio Roberto sta portando avanti in nome della memoria, ci dice. Quel giorno 4 banditi assaltarono un ufficio delle poste in via Castelmorrone a Milano. Giudizialmente mio padre venne ucciso da un metronotte che intervenne. Di fatto venne ucciso perché venne sequestrato da uno dei 4 banditi. Dopodiché questa persona della Mondial Pol sparò 2 colpi per fermare la macchina e di fatto uccise mio padre. La persona che aveva sequestrato suo padre era Zanetti, uno dei militanti dei NAP. tutto questo per le sentenze che cosa è stato? Si volle tenere lontana la matrice terrorista di questa rapina, nonostante anche dei rapporti della questura di Milano dicessero che appunto due dei quattro erano identificati come appartenenti ai NAP. Qual è ora la vostra richiesta verso la giustizia? Ci siamo mossi perché siamo stati invitati dalla provincia di Milano alla commemorazione vittime del terrorismo. La cosa ci ha ferito tantissimo perché noi sappiamo da oltre 30 anni che mio padre è stato ucciso da un terrorista. Lo Stato se ne è ricordato solo nel 2009. È come una scatola piena di polvere, la metti in cantina, sai che c'è, però non annusi quella polvere che poi ti fa stare male. Di fatto lo Stato italiano non ha fatto altro che rimettermi questa scatola sotto al naso, riaprirmela. Dal 2009 avete ricevuto ogni anno l'invito a partecipare alle commemorazioni? Sì, anche quest'anno, dal 2004, da quando è stata fatta la legge dal Presidente della Repubblica, si è portata magari una maggiore attenzione ai fatti di sangue di quegli anni. Però dal 2004 al 2009 passano altri 5 anni. Sappiamo benissimo qual è la burocrazia italiana. La stessa burocrazia sì. Che, secondo voi, vi tiene esclusi da quel diritto che lo Stato riconosce alle famiglie delle vittime di terrorismo ad un risarcimento. Noi abbiamo aperto una pratica per il riconoscimento di vittime del terrorismo per conto di mio padre. Entro fine mese il Viminale esaminerà il caso Saporito e noi seguiremo anche sul blog di Storiacce e sulla pagina Facebook di Storiacce gli sviluppi. Per riascoltare e scaricare questa e tutte le altre puntate, www.radio24.it sezione podcast o direttamente su iTunes. Ma prima di lasciarvi vi do appuntamento anche a venerdì 13 maggio a Torino. Storiacce sarà alla Salone del Libro per una puntata speciale aperta a tutti voi, aperta al pubblico. Dalle 15 per un'ora saremo col procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Scriveteci via mail o su Facebook sulla pagina di Storiacce le domande che voi direttamente vorreste rivolgergli. Allora vi aspetto al padiglione numero 2, stand L161. A venerdì allora a Torino, a sabato invece su queste frequenze come sempre. Ciao ciao!